18. In quest'ultimo ventennio di inondazioni e tracimazioni editoriali, esclusi i presenti, non salverei che tre libri. Uno di questi è sicuramente il libro di Melissa Turbo, che è, per la letteratura del nostro paese, un autentico soffio d'acqua fresca. Aria, suggerì timidamente Melissa. A parlare era il primo degli addetti ai lavori, il ministro della critica letteraria Enzo Ramanzer, noto per la sua Storia mondiale della letteratura, obbligatoria in tutte le scuole. Io e Alice ascoltavamo mano nella mano, rintanati nella dolce quiete di un separé. I tempi in cui un forsennato delirio polistilistico spinge gli autori a sproloquiare su non si sa poi cosa, un libro come questo, non ancora uscito, anzi non ancora scritto, ha la grazia e il pudore di un classico. Applausi. La non prosa di Melissa Turbo, il suo rimandare l'incontro fatale con la scrittura, il suo vigoroso disinteresse per i problemi politici e sociali, che è di scaro trattare al vero artista, per scegliere invece la verità nuda della non opera. Ebbene, tutto ciò elegge Melissa Turbo tra le migliori scrittrici contemporanee. Grazie Melissa per questo tuo bellissimo dono. Sono lieto di consegnarti il premio Seneca Bonn 1990 per il miglior prossimo libro. Applausi. Grazie, disse Melissa, e ora vorrei leggere alcune pagine. Si levò un mormorio di orrore e sbigottimento. Volevo dire alcune pagine del menù di stasera. Con un sospiro di sollievo, tutti scattarono verso il salone da pranzo e ci lasciarono soli. È ora di passare all'azione, disse Alice. Il filmato che cerchiamo è nell'archivio zero, il luogo più segreto e inaccessibile del regime. Da poco sono riuscita a scoprire la sua ubicazione e i codici d'entrata. Baciami, come hai fatto? Tieni le mani a posto. Il generoso prodigarsi di molti altri ribelli ha fatto sì che ci avvicinasse alla scoperta dello zero. Io ho riordinato le loro informazioni. Ho trovato la strada. Un bacio solo. Perché sei diventata ribelle? Cosa facevi prima? Ero stunt model, fotomodella specializzata in servizi pericolosi. Il pubblico era stanco dei soliti servizi patinati e così scoppiò la moda delle stunt models. Servizi fotografici dal fronte, in mezzo ai bombardamenti e alle carestie. Contrasti, look e tank, seta e sangue, gioielli e bombe. Lavoravo con Hector Malacarne, uno specialista del settore. Il primo servizio lo feci durante il terremoto di San Francisco. Sfilavo sull'autostrada crollata. Baciami, e non avevi paura? Sì, ma era sempre meglio che andar su e giù per quella ridicola passerella. Poi facemmo un servizio nella baia di Hancorn, dove si sono scontrate le petroliere. Tutto era ridotto a una palude nera, viscida. E in mezzo io sfoggiavo costumi da bagno sgargianti. La ditta aveva lanciato una campagna. Metà del budget pubblicitario era devoluto a lavare i gabbiani incatramati di Hancorn. Fu un successo. La foto in cui io, nuda, lavavo le zampe dell'orso bianco con la trielina andò su tutte le copertine. Le vendite aumentarono, gli animali no. Fu lì che cominciai a dubitare di ciò che facevo. E poi cosa è successo? Poi la Fiat International decise di lanciare la nuova Fiat Eremita. Ricordi lo slogan? Regalati un angolo appartato di benessere e ecologia nell'orribile vita contemporanea. Forse ricordi gli spot più famosi. Una Fiat Eremita entra nella Bowery e schiaccia contro il muro mercanti di crack e tossicomani. Una eremita spider lanciata sull'autostrada amazzonica fa ricrescere al suo passaggio gli alberi abbattuti. È il mio vestito quello che hai in mano? Volevo vedere la marca. Maniaco. Io invece fui scelta per lo spot Eremita in Africa. Plot. L'auto viaggia nel deserto e ovunque passa spuntano negretti festanti e nascono oasi e sorgenti. Io sto sul tetto, in tuta da rally e sorrido come una Madonna. Fu uno spot pieno di imprevisti. Anzitutto, avevano scelto un punto del deserto non abbastanza deserto. Dovettero estirpare tutte le palme. I negretti locali erano troppo brutti. Ne prelevarono 100 da un altro paese. Poi filmarono la scena. La Fiat Eremita passava a tutto gas sulle dune e i negretti dovevano tirarsi da parte all'ultimo momento, su segnale del regista. Più il negretto schivava all'ultimo momento, più la scena era emozionante. L'Eremita partì e centrò 6 negretti su 10, oltre a 2 cammelli e uno sciamano. Rifacemmo la scena molte volte. Un massacro. Fu così che decisi di passare ai ribelli e diventai l'amante di un gerarca. Ti stai eccitando? Sì, posso togliermi le scarpe? Dal momento che sono l'unica cosa che hai ancora addosso, sì. Diventai amante ufficiale di regime, con regolare iscrizione all'albo, perché era l'unico modo per entrare nei compositori ed essere utile alla causa. Questo avvenne 6 anni fa. Ho lavorato duramente da allora, ma ci sono riuscita. Tu no, invece. Non conosco questo modello di reggiseno. Ora che sei arrivato qui, Bedrosian Baol, con la tua magia riusciremo a raggiungere l'archivio zero. Troveremo quel filmato. Il regime non potrà mentire su Krapatax, né su tanti altri. Diffonderemo la verità primaria, smaschereremo le loro menzogne e piegheremo l'oppressione capitale informatico groviglio catodico panica. Porteremo pace e prosperità nel mondo. Baciami, Baol, e parlami di lei, la lei che sarei io. Lei non esiste più ora. Mi lasciò tanti anni fa. Mi piantò in asso. Era solo una prestigiatrice da Night, come tante. Uno sguardo a lama di coltello mi gelò. Alice aveva cambiato idea di colpo. Si rivestì, operazione che seguii con doloroso interesse. «Perché?» chiesi. «Perché?» «Stavamo dimenticando la nostra missione, ribelle Bedrosian», disse Alice. «E non c'è molto tempo. Tra poco spegneranno le luci ed entreranno in funzione gli allarmi notturni e i vigilanti Nyctalopi. Ad Inferos!»